credo che adesso ci sia ancora da parlare la professoressa Lisa Palmieri Biller. È presente? Venga, sì. Io sono qui come ospite, come rappresentante della Conferenza Mondiale di Religioni per la Pace, che attualmente sta avendo una riunione mondiale a Melbourne in Australia, ma alcuni di noi siamo rimasti qua, e in questa qualità, come persona che sono anche giornalista e sono ebrea, e in qualità di questo mio, diciamo, mia partecipazione nel dialogo interreligioso che va indietro molti molti anni, vorrei fare una piccola osservazione su questo bellissimo incontro. La storia del dialogo fra le religioni certamente ha avuto dei punti di luce nella storia, ma come sappiamo è stato anche fatto di tanto dolore. Perciò ogni riavvicinamento deve essere visto come un avvenimento di gioia e speranza. E io sono d'accordo che è molto difficile, e come il padre Ferré ha detto, è più facile cominciare un dialogo a due, perché il dialogo è difficile in sé, e in due ci sono sempre dei temi specifici che vanno chiariti prima che uno può cominciare a fondo un discorso più allargato. Ma allo stesso tempo vorrei ricordare che il discorso delle tre religioni monoteiste è un discorso storicamente e anche religiosamente talmente annidato, talmente unito, talmente difficile da separare uno tra l'altro, che io penso che si farebbe una torta storico, una mancanza della ricerca della stessa identità se uno ignorasse uno di queste tre religioni che sono talmente vicini. In fondo l'Islam e il cristianesimo sono fratelli che hanno uno stesso padre. Non si può dimenticare il padre, le radici, per capire se stessi. E anche il discorso ebraico-cristiano è andato avanti principalmente a due. Però vorrei ricordare che, malgrado le difficoltà, e come ha detto anche di nuovo il padre Ferré prima, quando ha parlato della fondazione del PRIC, che è stato evitato un discorso a tre perché ci sono delle difficoltà politiche, è vero, ci sono da tutte le parti, però di recente, in questi anni, ci sono state delle grandi aperture, delle esperienze positive, e vorrei citare qualcuno. Innanzitutto c'è stato, non so se voi conoscete, the International Conference for Christians and Jews, che è andato avanti per molti molti anni a due. Ultimamente ha avuto una conferenza in Canada dove c'erano presenti anche i rappresentanti dell'Islam. Qui in Italia i colloqui ebraico-cristiani che si tengono ogni anno, oggi quest'anno credo che è stato il sesto o settimo anno a Camaldoli, quest'anno c'è stato il dottor Alam Fuad, che è stato qui, è stato invitato anche lui. Io stesso ho partecipato nell'84 in un colloquio, un seminario a Salisburgo al Schloss Leopoldskron. Forse voi, qualcuno conoscerà i seminari di Salisburgo, che sono stati istituiti dopo la guerra proprio chiamando studiosi da tutto il mondo, proprio dalle parti che sono stati in guerra uno con l'altro, per fondare un dialogo. Cioè circa una decina di questi seminari ogni anno di studiosi, e c'è stato nell'84 un incontro tra 30 studiosi da tutto il mondo, dal mondo arabo, ci è stato presente persone dal Libano, dalla Siria, dall'Egitto, e dal Medio Oriente c'è stato Israele. E il tema era la comunalità di tradizioni culturali tra Islam, ebraismo e cristianesimo. E devo dire che questo incontro è stato meraviglioso, perché ci sono stati persone che in altri luoghi forse non parlerebbero uno con l'altro. Allora, io vorrei soltanto segnalare che il dialogo può già oggi, i tempi non è che non sono maturi per un'apertura di dialogo tra studiosi e delle tre religioni. E se noi pensiamo storicamente, chi nell'Occidente ha diffuso la cultura islamica sono stati i traduttori ebrei nella Spagna, questo, se noi guardiamo la letteratura, troviamo gli stessi racconti in tutte e tre le tradizioni, troviamo la stessa storia, gli stessi personaggi, e per essere veramente onesti intellettualmente bisognerebbe cercare la storia, le radici in ognuno delle tre tradizioni per arrivare alla verità. Io vorrei perciò lanciare questa proposta, che forse l'anno prossimo o quando potete, di fare anche qui un incontro tra studiosi dalle tre religioni monoteiste, che io trovo oggi è una necessità non soltanto storica, ma anche un passo di dialogo verso la pace. E in questo contesto io vorrei dire che vorrei augurare che un incontro che c'è stato anche quest'anno in memoria della giornata internazionale di preghiera per la pace chiamato ad Assisi dal Papa, c'è stato quest'anno nella ricorrenza del secondo anno a Sant'Egidio a Roma, e spero che l'anno prossimo saranno invitati anche insieme con i personaggi da tutto il mondo di preghiera e di pace e dal Mediterraneo, che sarà invitato anche i rappresentanti di Israele, così che si potrà pregare insieme e si potrà cercare questi uomini che lavorano per la pace. Io a Salisburgo sono stati degli studiosi che di Libano, di Israele, della Giordania, che erano specializzati nella storia della mistica, e propongo che forse questo potrebbe essere un inizio di ricerca in comune. Vi ringrazio. Devo essere telegrafico per essere fedele all'orario. C'è qualche intervento? Avevo promesso per le 12, però. Allora l'assemblea deve assolvermi, perché io volevo un momento, perché la discussione, il dialogo deve essere anche ordinato. Allora, siete d'accordo di fermarvi mezz'ora fino alle 12:30? L'assemblea decida. Allora io devo concludere per volontà dell'assemblea, nessuno ne abbia male, altrimenti mezz'ora era disponibile. Uno alla volta vengono al banco, dicono il proprio nome e facciamo colloquio. Io non ho niente in contrario, però l'assemblea decida. L'opinione è di concludere. Allora mi duole, per questa volta dobbiamo essere contenti così. Ecco, a me resta solo il compito di dire un grande ringraziamento a tutti per questo incontro, che è stato così ricco e così vario, vero? Anche proprio nella sua varietà, atto ad arricchirci tutti. Il mio ringraziamento ai relatori, a tutti quelli che sono intervenuti, e non soltanto per il contributo, direi, di apporto scientifico intellettuale, ma per quel contributo di fraternità, di volontà, di dialogo, vero, di fraternità, come l'imam lo ha ben chiamato, che ci ha condotti ad essere insieme questi giorni. Ecco, la mia impressione fin dal primo momento è stata di una certa sorpresa per la, veramente, la recezione così larga, per l'interesse così largo suscitato dalla tematica. Non mi attendevo dall'ambiente nostrano qui una reazione così vivace e un'adesione così larga. Oggi è giorno di sabato e è un giorno particolare, ma ieri e l'altro ieri abbiamo avuto una frequenza assolutamente singolare e anche spiritualmente intensa. Ecco, rifletto continuamente ancora su questo. Io penso che ci sono due elementi soprattutto che ci inducono a ragionare su questo. Da un lato, il fatto che tutti sentono come la secolarizzazione non è l'ultima parola. La secolarizzazione non è l'ultima parola. Qualche momento lo credevamo, l'abbiamo creduto anche noi con desolazione, ma appena il discorso si allarga ci accorgiamo che non è l'ultima parola. Ed è soprattutto, ed è confortante questo, constatarlo, non così come un ragionamento vero teorico, deduttivo, ma proprio dal confronto diretto con la mondialità, con gruppi molto più larghi di quelli con cui si è consueti a fare il discorso, no? Ed è l'altra componente, per conto mio, che ci porta veramente ad allargare uno sguardo sulla situazione spirituale dell'umanità intera, come è realmente, includendovi anche gli umili e i semplici, vero? E cercando di prendere contatto con tutto questo. Dico, questo per noi è di grande conforto, anche se, come è stato detto nell'ultimo intervento, il discorso interreligioso che diventa reale e vivo non risparmia il dolore a nessuno, costa sacrificio a tutti. Ecco, sono contento che chi non è del posto porti con sé l'impressione che qui c'è un centro che cerca anche di essere disponibile per quel poco che può anche nel lavorare in questa direzione. Ecco, raccomanderei di portare con sé questo ricordo a tutti gli ospiti e relatori che sono venuti di fuori, anche ai vari centri che qui si sono appunto dati presenti e presentati. Ecco, e soprattutto con la presenza del nostro padre Giulio Bassettisani avete anche una prova concreta di chi può essere veramente con noi in questa casa più direttamente interpellato e destinato a rispondere anche a queste attese. Ultima osservazione relativa agli atti di questo incontro, che io desidero possano uscire presto, più presto possibile, e di cui padre Giulio Bassettisani tiene appunto l'incarico, per non scontentare o non lasciar perdere il filo del discorso. Direi che chi avesse un interesse a mettere le mani avanti già adesso, magari mandi un bigliettino semplicemente o lasci un biglietto col proprio indirizzo. Quando uscirà il volume degli atti, noi a quei tali manderemo una comunicazione scritta a ciò che ognuno poi possa ordinarselo. Forse è il caso da lasciare una piccola memoria per quelli che hanno intenzione, vero, desiderio di avere gli atti. Io per primo sono in questa condizione, mi immagino che tanti altri. E per parte nostra cercheremo veramente di far di tutto perché possano uscire presto e bene. Grazie della presenza, buon ritorno a casa. Grazie. Buon viaggio a chi deve partire.